Oh.

sola. Perché tu servi qui? Non servo a nulla. Sì, delle persone. Tu sapevi? Lo conservate, è vero, è gran tempo. Sa male, vada a sarre, la riporrà tu. Oh, Viola rapisco. se col gregge stanotte tu stai, la pianura percossa udirai da un galoppo terribile. In sei là, stretta a me, guiderò la mia bella, ma il suo grido quel vento ne andrà. Thank you. Io son Thank you. pastore, lottò tutta la notte, ma quando il sol spuntò, mi mise a terra il corpo sanguinoso. Orribile, orribile, sempre la vedeva nelle sue braccia. E la stringe, se la porta, squagiala se ci le verrà le zampe del suo cavallo. Ma non posso vivere più. Thank you.